non sono come si dice, giornalisti, ma giornalai. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Dove la tira sempre quando è in quella posizione lì. Quello in velocità con Dainelli, lo vince Klose. Klose, che accelerazione di Miro Klose! Lui sfrutta il movimento, ecco il suggerimento per Damian che lo mette in mezzo. Fabio Quagliarella, 2-1. Attenzione, palla buona per Paloschi, il pareggio del Chievo al 30° minuto. Riassunto sonoro della domenica calcistica, almeno per quanto riguarda il campo: la Juve ha perso 2-1 il derby, non succedeva dal 9 aprile 1995 e dunque niente scudetto. La Lazio non ha approfittato della caduta della Roma, 1-1 contro il Chievo, secondo posto, +1, ma questa sera il Napoli ha un'occasione incredibile per rientrare nella lotta non solo per la Champions ma addirittura per il secondo posto. Pensate, se vince va a -2 dalla Roma e a -3 dalla Lazio. Questo quello che è successo dentro il campo. 800 24 00 24, poi c'è tutto il resto e c'è una domenica da arrossire di vergogna. Intanto saluto Tony Damascelli, ciao Tony. Ciao a tutti. Ciao anche a te Carlo Genta, che è il mio consueto compagno di viaggio. Provando a limitarci a quello che è successo al campo, poi vi daremo tutti gli aggiornamenti sugli incidenti di Torino, su quello che è successo di incredibile dopo Atalanta-Empoli, domenica davvero che dobbiamo cancellare. Domenica storica per i tifosi del Toro, Tony. Eh sì, il passaggio dalla lira all'euro porta anche questo, no? Nel 95 a oggi prima o poi doveva capitare. 20 anni sono tanti, ma oggi il Torino ha meritato questa questa vittoria, l'ha meritata per il coraggio, per il cuore, direi che nulla ha rubato, anche se la Juventus nella fase finale poteva forse agguantare il pareggio, però la Juventus si è illusa come al solito in certe partite di poter gestire il risultato, di poter portare a casa la vittoria grazie al suo maestro che è Andrea Pirlo, che oltre al gol ha preso anche un palo. La Juventus ha giocato molto eccessivamente con lentezza nella prima fase e nella seconda parte si è riscattata, diciamo così, però secondo me sono i giocatori che fanno sempre le partite e non si possono regalare in eterno, e soprattutto in partite come queste. Marchisio, Evra, Chiellini, Tevez per un'ora, Pogba, questi sono giocatori che in partite come queste possono avere un peso importante, puoi anche perdere, ma hanno un peso importante, sì, rispetto poi a Sturaro, ai Padoin. Sì, poi credo che le motivazioni in un derby facciano la differenza, ed era anche fisiologico che la Juve ne avesse meno in questo momento. Ma poi la Juventus ha altre idee per la testa, la classifica racconta un'altra storia, direi che tutto questo è fisiologico. Il problema della Juventus, Tony, adesso è recuperare, ne abbiamo parlato, guarda, venerdì con Pincolini, il problema è recuperare una condizione fisica accettabile in vista della partita che conterà, cioè che sai benissimo qual è. Sì, ma guarda, la condizione fisica c'è, perché la seconda parte dell'incontro la squadra ha reagito, quindi sarebbe stato grave se avesse giocato un primo tempo intenso, feroce, e un secondo tempo di difficoltà. Invece nel secondo tempo ha costruito alcune occasioni, alcune situazioni di gioco. Oggi, come era capitato anche nella partita di Coppa, alcuni uomini sono venuti meno. Lo Spagnolo davanti non l'ha mai vista, parlo di Morata. In mezzo al campo c'è stato un lento tramonto di Pereira, che è un giocatore molto importante per il cambio almeno di passo. Dietro, quando senza Chiellini, quando Bonucci deve ragionare, va in affanno, va in difficoltà. Il primo gol di Darmian, lui commette 3 errori consecutivi. Vero. Uno parte, e poi anche sul secondo gol si va a sovrapporre a Lick Steiner nel falso, diciamo nella falsa marcatura su El Khadouri, che poi porta al gol di Quagliarelli. Bonucci che comunque, a prescindere, secondo me è stato il migliore della Juventus insieme a Marchisio in tutta la stagione, perché lì, sì, in mezzo, insomma, lì in mezzo, lì in mezzo, il migliore, fa... Vabbè, a parte le superstar, lasciando stare le superstar, diciamo dei giocatori normali. Sì, guarda, io non ho una grande considerazione di Bonucci, lo considero un giocatore normale che gioca in un meccanismo importante quando attorno a sé il meccanismo c'è e gioca, perché altrimenti, ribadisco, non è un giocatore di grande fiducia nella fase di difesa. Comunque nulla cambia questa partita, cambia qualcosa per il Toro. Sì, cambia perché il Toro è assolutamente in corsa per l'Europa League, tra l'altro, esatto, perché noi continuiamo a dare per scontato che ci vadano Fiorentina e Sampdoria. Adesso vedremo le 18 Fiorentina Cagliari, poi questa sera la Samp va a Napoli. Quella è una partita chiave. Che è una partita chiave per tutti. Posso essere malizioso, è curioso che al Toro interessi davvero e stia lottando ferocemente per andare in Europa League, perché secondo me ci sono altre squadre, non voglio fare i nomi, ma in città dove c'è il mare, che non hanno grande voglia di andare in Europa League. Al Torino invece interessa davvero, questo rende grande merito ai Granata. Non riesco a capire questa storia. In passato De Laurentiis più volte ha detto l'Europa League è un torneo fasullo, ha accusato Platini di aver intossicato questo torneo, e invece il torneo, l'Europa League è un torneo importantissimo, non dà gli stessi soldi che dà la Champions League, ma è un torneo che ti dà un'illustrazione internazionale importante, comunque ti dà dei denari, se arrivi in finale vedi il Siviglia quest'anno che va avanti e affronterà appunto la Fiorentina. Io ritengo che c'è un'ignoranza di base nei nostri dirigenti del nostro calcio, e la conferma è che stranamente poi arriva questo periodo e qualcuno incomincia a pensare all'Europa League dopo averla snobbata magari per tutto l'anno come traguardo, come posizione. Sì, per poi magari ricominciare a snobbarla ad agosto. Noi quest'anno non è andata così e siamo contenti, e poi insomma del ranking non parliamo oggi, ma ne abbiamo parlato per tutta la settimana. Però sì, c'è qualche piccolo segnale. No, però volevo anche dire, insomma, il bollettino di guerra l'abbiamo fatto prima nel GR e siamo qui per darvi aggiornamenti, di un pomeriggio che purtroppo non è ancora finito, un pomeriggio da arrossire di vergogna. C'è stato l'assalto al pullman della Juve, ci sono stati gli scontri fuori dallo stadio, c'è stata la bomba carta lanciata nel settore dei tifosi del Torino, almeno questo pare secondo le prime informazioni, con una decina di persone finite all'ospedale, 2 in codice rosso, ma non sarebbero pericolo di vita. Comunque noi siamo qui. Poi c'è, vi faccio sentire Marotta, che prima della partita, parlando dell'assalto al pullman, ha dato una chiave di lettura un po' particolare, prendendosela con i giornalisti. Per carità, qui non ci sarà nessuna difesa della categoria, però ve la faccio sentire perché merita. Un linguaggio assolutamente contro di noi, non valutando quelli che sono invece i meriti sportivi, e quindi è normale che poi la conseguenza della gente sia questa. La speranza è che non si arrivi veramente a un fatto grave di cui poi tutti noi dovremo pentircene. E poi se l'è presa anche con un giornalista di un giornale in particolare, oggi facciamo il nome, Giampaolo Ormezzano sulla Gazzetta dello Sport, per un pezzo di commento che veniva anteposto al pezzo di un tifoso juventino, insomma era la pagina dei commenti. Però volevo sapere, Tony, a te che effetto fa? Che effetto fa, che cosa? Aver sentito le parole di Marotta. Gli incidenti, poi ne parliamo dopo il traffico, ma il legame tra l'assalto al pullman e il modo di fare informazione. Guarda Gianni, c'è un legame forte tra il comportamento di alcuni giornalisti faziosi, non tifosi, faziosi, e il diciamo, l'onda che arriva sui tifosi, perché i tifosi si sentono legittimati in alcuni casi da quello che dicono e scrivono alcuni giornalisti, non parlo di colleghi. Giampaolo è un giornalista assoluto, parlo di Giampaolo Ormezzano ovviamente, Giampaolo è un giornalista assoluto, purtroppo quando c'è di mezzo il derby Giampaolo parte in quarta e va per la tangente. Il suo pezzo di stamattina non è un pezzo logico, non è un pezzo intelligente, lo dico senza alcun timore e mancanza di rispetto in un maestro che è Giampaolo Ormezzano. Lo dico perché che cosa significa scrivere che la Juventus ha praticamente rubato, perché parla di prestigiatrice nero che piuttosto che in bianco nero, la partita di andata, il rigore con il Monaco, il rigore contro il Monaco, le altre partite del passato, i comportamenti, cosa significa in un momento del genere? Non significa nulla. Quindi adesso non è che la colpa è di Giampaolo, la colpa è, però noi facciamo spesso e volentieri, siamo spesso e volentieri complici di certi comportamenti, basta vedere il comportamento di alcuni giornalisti nelle tribune stampa, non parlo in televisione, perché lì spesso il circo è veramente volgare, ma in tribuna stampa io ho assistito e assisto ancora oggi a scene di violenza. Se quasi, possibile, sottoscrivo dalla prima all'ultima parola, Tony. Ti chiedo un minuto di pazienza che c'è il traffico. 800 24 00 24. Noi stiamo qui fino alle 19. Quindi, oltre agli aggiornamenti, voglio anche sapere cosa ne pensate da casa. Poi adesso sentiamo anche le voci live da Torino. Traffico. Tutti convocati. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta. Convocati. Non esiste, mi girano le scatole in una maniera incredibile che noi dobbiamo regalare sempre qualcosa a questa squadra, per quale motivo? Questo è l'IP d'annata, 1995, dopo l'ultimo derby vinto dal Toro. Adesso però vi faccio sentire Allegri di oggi, adesso i microfoni di Sky 800 24 00 24. Allegri. Un cambio gioco, siamo saltati di testa e abbiamo scatenato 2-1 sull'esterno, cosa che non dovevamo fare. Poi abbiamo creato molto, credo che ragazzi oggi non c'è da rimproverarli niente per quello che hanno creato, purtroppo non si è riusciti a far gol. Sì, ricordiamo anche due pali nel secondo tempo. Le chiedo invece, ha dovuto fare delle scelte, immaginiamo anche per motivi fisici per alcuni giocatori che avevano bisogno di rifiatare, mi riferisco in particolare a Tevez, ma soprattutto a Chiellini e Barzagli. Forse in questo senso, insomma, certe distrazioni difensive, rinunciare contemporaneamente a questi due probabilmente incide in una difesa come quella della Juventus, che ha dei meccanismi perfetti. Credo che questa non sia una motivazione valida, perché oggi abbiamo perso. Io credo che ci siano delle letture della partita nei momenti della partita in cui mancano 5 minuti, va in vantaggio, bastava avere pazienza fino allo sfinimento. D'altra parte vincevamo noi, non capivo perché bisognava andare a cercarsi rogna, a giocare per andare a fare il secondo gol. Sono loro che dovevano venire. Quando l'abbiamo fatto abbastanza bene, poi c'è stato un momento che abbiamo forzato 2 o 3 palle che non dovevamo assolutamente forzare. Questa è una cosa su cui dobbiamo ancora migliorare, perché non dobbiamo. C'è dei momenti della partita che vanno giocati così. Se in vantaggio gli altri non vengono, non capisco perché bisogna andare noi. Questo Allegri che spiega la sconfitta nel derby. Poi c'è qualche amico che da casa comincia a scrivere 349-238-6666. Per favore, non tirate fuori la storia del cuore granata, che non esiste se non nella testa di quattro gatti. Ci chiami, no? 0024, cuore granata, rivincita granata, revanche, quello che volete. C'è chi dice, guardate, dai, che la vittoria del Toro nelle menti malate di chi ha saltato il pullman fa credere che sia anche merito loro. Poi ancora sono curioso di sentire che cosa ha da dire Marotta sulla bomba carta lanciata contro i tifosi del Toro. No, perché poi Tony Damascelli è meraviglioso. Noi poi ci dividiamo anche su un fatto che in realtà ha un giudizio molto semplice, cioè è da condannare, basta. Un atto di violenza, invece si comincia. Marotta adesso deve dire qualcosa anche contro i tifosi della Juve e andiamo avanti così. C'è violenza di destra e di sinistra, c'è la violenza, come la libertà è una, la violenza è una, non ha una carta d'identità, sono dei delinquenti. Questo accade in un calcio da terzo mondo, accade da noi, accade in Turchia, accade in Grecia, andate in Inghilterra, andate in Germania, sono fenomeni più rari, anzi diciamo rarissimi. perché a parte che la gente viene individuata in minuti due, ma poi cosa serve tutta la testa dei tifosi, tornelli? A niente, poi è chiaro stadi, che a niente, è chiaro che a niente. Gli stadi sono delle discariche, gli stadi sono delle discariche dei delinquenti, per i delinquenti, solo che purtroppo tutto questo rimane nelle nostre parole, in questo momento, grazie a voi, per questa radio, perché si parlerà di altro, si parlerà di rigori, si parlerà di arbitri, si parlerà appunto di assenze di calciatori, di vittorie, di scudetto, di Europa League. E questo invece è un argomento, dovrebbe essere la priorità del nostro calcio. Sì, però posso dire una cosa, Tony, scusami, però sì, posso dire che la Juventus è uno dei club che nel complesso ha provato a fare qualche cosa? Perché c'è Pallotta che di recente è stato lasciato solo, c'è Lutito che è solo da 10 anni, alzi la mano e lo aspettiamo al telefono qualche presidente che prenda una posizione a favore di questi che stanno facendo qualche cosa, non dico tanto, ma qualche cosa nei confronti di certe frange. La Juventus qualcosa ha fatto, Pallotta ci prova, Lotito ci sta provando e gira sotto scorta, gli altri zitti, e li cerchiamo, lo sai anche tu, li cerchiamo tutti i giorni. Ma perché cerchi me? Ma no, non chiedere a me queste cose. Ma non appena James Pallotta ha dato fucking idiots ad alcuni tifosi, la reazione, a parte da parte dei fucking idiots che si sono giustamente fatti, esatto, riconoscere, e che non erano 4 o 5, la reazione dei sodali di Pallotta, qual è stata? Ferrero ha detto di essere contrario. Bravo, bravo, bravo. E quindi bravo. Signor Ferrero, che è tanto simpatico, piace a tutti, ha preso addirittura un premio adesso dai giornalisti, ha preso un premio, sì, dai giornalisti, sì. Allora, da una giuria di giornalisti. Allora io mi chiedo, è lì che il calcio italiano, il ranking del calcio italiano dovrebbe crescere. E gli altri? Posso farvi la mia proposta? Poi gli intanto altri? Saluto Roberto, sì. Cravero, scusate che abbiamo chiamato. Ciao Roberto. Ciao. Prima di salutare Tony Damascelli, io vi dico che secondo me Juventus e Toro, se volessero dare un segnale importante oggi, dopo la vergogna di oggi, dovrebbero accettare la sentenza della giustizia sportiva domani, qualunque essa sia, senza fare ricorsi, collaborare nell'identificazione dei responsabili, bandirli a vita dei propri impianti. La Juve qualcosa ha fatto l'anno scorso, in questi mesi, ma bisogna insistere, e poi chiedere i danni materiali ed immagini a questa gente una volta identificata, ma poi senza pentirsi all'ultimo momento, tornare indietro, ritirare le querele, la Caritas e cose anche che abbiamo visto recentemente. Questa è una risposta che avrebbe, credo, un senso, darebbe un senso di unità nel cercare di combattere questo fenomeno. Tony, ti saluto e ti ringrazio. Grazie Tony, ciao. Roberto, una parola sulla vergogna di oggi, che è ovviamente quello che è successo fuori dal campo, perché in campo è stato un derby meraviglioso, Roberto. Sì, infatti hai ragione anche Tony. Devo dire che alla fine questo derby bellissimo sarà ricordato anche per fatti esterni, e questo non è giusto, cioè, io penso che dopo una prestazione del genere, perché poi alla fine ci si accorge che i più corretti poi rimangono, sono quelli che sono in campo, perché hanno veramente dato tutto. Delle volte in un derby ci deve essere anche magari quella cattiveria sportiva che c'è stata, ma poi ho visto tutti complimentarsi, abbracciarsi, e tutto finisce lì. Purtroppo continuiamo a parlare di certe situazioni. Io sono d'accordo con te quando dai delle colpe alla società, poi però vorrei che ci siano delle leggi che permettano alle società di operare in un certo modo. Io sono convinto che i primi che debbano dare un segnale è proprio la politica, proprio lo Stato, proprio i presidenti si devono accodare e devono accettare certe sentenze, certe situazioni, ma fin quando non ci saranno delle leggi dure, sicure, io penso che anche le società facciano delle difficoltà ad accodarsi. Beh, però Roby, pur in assenza di legge eccetera, qualcuno ha preso posizione, la Juventus in passato, la Lazio condotto da diverso tempo, Pallotta di recente, gli personali, altri si defilano, certo, personali. Beh, però da qualche parte bisogna Pallotta schiera anche una società quando non fa ricorso, la Juve l'aveva fatto l'anno scorso, bisogna iniziare pur in assenza di leggi. Io penso che siano personali, poi non si accoda nessuno, cioè vorrei che queste iniziative facciano sì che lo Stato prenda dei provvedimenti molto più duri che in questo momento non ci sono. Senti, sul campo che effetto fa da vecchio cuore granata l'idea che dopo 20 anni il Toro torni a vincere un derby? Beh, non è, cioè, la contentezza per questa vittoria, soprattutto meritata. Forse la Juve, ti devo dire la verità, meritava qualcosa in più, perché tre sì, pali anche sfortunata, al di là delle motivazioni, assolutamente, con motivazioni diverse. Il Toro non ha rubato assolutamente nulla, perché ha fatto una grande partita, è andata sotto, cioè, quindi poi ha recuperato, non era facile, è una bella soddisfazione. Poi però, se penso a 20 anni, ai miei tempi, diciamo, ai miei tempi, 20 anni senza vincere un derby è strano, perché comunque io ho vissuto sia da tifoso bambino sia da giocatore dei derby veramente, veramente così aperti a qualsiasi risultato. Comunque questo potrebbe essere un inizio, anzi mi auguro che sì. Vedi qualche segnale di calo? Ne parlava prima Damascelli, diceva attenzione perché la Juve non può rinunciare ad alcuni giocatori chiave, e qualche segnale comincia a vedersi di Logorio, al di là dell'infortunio di Pogba, cose che vanno ovviamente proiettate più sulla Champions, più su questa grande sfida con Real Madrid, più che sul campionato che è chiuso comunque. No, infatti bisogna giudicare a 360 gradi la prestazione della Juventus. Chiaro che gli stimoli erano diversi, la formazione del Torino era quella titolare, quella della Juve, se metti dei rincalzi, la forbice si stringe molto. Comunque la Juve ha fatto una buona prestazione, in chiave Champions ha recuperato Pirlo, che l'ho visto veramente in buone condizioni. È chiaro che i risultati, sai, in quest'ultimo mese, sconfitta a Parma, sconfitta nel derby, passaggio del turno col Monaco con una prestazione alla fine insufficiente, se analizziamo la prestazione dei 90 minuti a Monte Carlo, sai, affronti il Real Madrid. Oggi ho proprio letto delle dichiarazioni di Ancelotti che dice che probabilmente... A proposito di motivazioni, cioè molto più puntata sulla Champions che su provare ad inseguire la Liga, e questo è un problema per la Juve, è una cattiva notizia. No, la cattiva notizia è che ho letto una dichiarazione di Ancelotti che dice che probabilmente lo scontro con la Juve recupereranno sia Bale che Benzema. Allora questa non è una grande notizia per la Juventus. Beh, per Bale parliamone. Beh, insomma, meglio averlo in campo che non averlo. Parliamo, lo dicono i risultati, non so sì, se tu sei della scuola di Filippo Maria Ricci, sì, abbastanza, semplicemente un quattrocentista prestato al calcio senza un grande giocatore, però i risultati dicono che Real Madrid produce meglio senza di lui, cioè senza nulla togliere al giocatore. Roberto, ti devo salutare perché siamo quasi ciao, al meteo, Robby. Grazie Roberto Cravero. Ciao Roberto, ciao. Sentiamo un pizzico di Pioli dai microfoni di Sky. E queste sono partite che una grande squadra con cattiveria, con più cattiveria, più determinazione, più attenzione la deve portare in porto. Noi se non ci siamo riusciti significa che ancora in qualche situazione possiamo fare meglio. Studio. Pioli non è... E questo era Pioli deluso ovviamente per l'1-1 contro il Chievo. Pronto? No, chiedo scusa. Dovete smetterla però. Oggi, buongiorno. Buongiorno. Secco, è ora di finirla. Perché il vostro è giornalismo spazzatura. Ha ragione Marotta. Quindi ha ragione Marotta. È colpa dei giornalisti. Sì, vabbè. Certo. È colpa dei giornalisti. È perché questi incidenti sono provocati da voi. Voi siete la zighenecchia della comunicazione. Infatti adesso... tiriamo bombe carte dalla finestra tutti siete i giorni. Siete pipistrelli dell'informazione. Sì. Io ho letto delle cose scandalose. Ho letto di magia bianconera, ora bianca. Ne abbiamo anche parlato prima. Poi sulla Juve scrivono sempre, hanno scritto anche su Moggi, su tante cose. Ascoltate, mi ricordo il periodo in cui si parlava delle mie schede telefoniche e si diceva che le facevo sparire. Sala bim, questo non va mica bene, perché non si fa così. Sì, però non è che anche la Juve è un po' fissata con questa storia che i giornalisti ce l'hanno su con No, bisogna dirlo una volta per tutte. Poi io praticamente sono già vaccinato. Io mi lascio scivolare l'accusa e le critiche come lo shampoo dei capelli. Sì, i capelli a proposito, lasciamo stare i rigori. andata bene però nel sorteggio. Lasciamo stare i rigori, perché insomma oggi non è il giorno. Però ecco, per esempio, è tutta la settimana. Adesso lasciatemi parlare. Sì. È tutta la settimana che andate dicendo che la Juventus ha avuto culo nel sorteggio. Beh, un po'. No, non è culo. Perché io gliel'ho anche detto a Caroline Riddle. Riddle, che poi è stato lui, no, a estrarre dall'urna. Io gli ho detto che ha sorteggiato abbastanza bene, ma io gli avevo detto di estrarre prima il Real Madrid, invece così ci tocca giocare prima a casa. Mi sembra il caso di tornare. Va bene. Arrivederci, Moggi. Il calcio italiano sta naufragando. Arrivederci. Lo dico io. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Intanto sono in campo Fiorentina e Cagliari, si parte alle 18, poi vi do le formazioni ufficiali. 800 24 00 24, c'è chi scrive: ricordate la vicenda dell'allenamento dell'Olimpia Basket, interrotto l'anno scorso dai tifosi, la società ha tenuto duro, poi alla fine un giudice ha annullato il DASPO. Poi condivido la linea dura contro i violenti, purtroppo stampa e proprietari di club che si impegnano contro i violenti finora hanno fallito, solo per un motivo: non hanno nessuna credibilità. Poi un altro amico che scrive: avete ragione su tutta la linea, bisogna ripulire gli stadi ad ogni costo. Questo è Lorenzo, e insomma poi altri che suggeriscono la propria ricetta. 800 24 00 24. Tanto saluto Alessandro da Milano. Alessandro. Buonasera, grazie. Eccoci. Per l'opportunità. Volevo solo dire due cose molto velocemente riguardo a Marotta. Per prima cosa, lui si stigmatizza un po' il comportamento dei tifosi, anche in base a quello che sono, diciamo così, determinate dichiarazioni di giornalisti, eccetera, eccetera. Ma io gli vorrei dire, innanzitutto, che bisogna rispettare le sentenze della giustizia sportiva e poi anche di quell'altra penale, ormai che è definitiva. Perché quando lui alza gli occhi allo stadio lì dove gioca la squadra, vede 32 scudetti, ecco, che prossimamente saranno 33. Ecco, va bene. E quindi, arrivato a un certo punto, cominci a rispettare le sentenze della giustizia. Cominci lui, invece di predicare agli altri e ai giornalisti, lui per primo. Altrimenti sono solo delle chiacchiere ipocrite, sì, e basta. Io credo, Alessandro, che in realtà è una bella riflessione, dovremmo farla tutti. Io non so se avete sentito Toni Damascelli prima, io la sottoscrivo dall'inizio alla fine, così mettiamo dentro anche noi operatori dell'informazione. Però guardate, in queste settimane io ho questo pensiero, queste sono anche occasioni meravigliose per segnare il campo, per segnare il terreno e per far capire che davvero le cose sono cambiate. Oggi non è successo solo la vergogna di Torino, oggi è successa anche questa cosa pochi minuti dopo Atalanta-Empoli. Questa è l'accusa di Maccarone. Tante volte si parla della violenza fuori del calcio e poi siamo noi i primi a farla. Dennis comunque penso sia stato un vigliacco, perché è arrivato nei nostri spogliatoio con davanti Cigarini e da dietro all'improvviso ha tirato un cazzotto a Tonelli che gli ha rotto sotto l'occhio e il naso, credo. E poi la cosa che mi è data ancora più fastidio è che nell'uscire c'erano le luci spente nel corridoio, come se era già tutto organizzato da parte di qualcuno. E quindi questa è una cosa ancora peggiore, perché vuol dire che tipo hanno voluto dare una via di fuga a Dennis per non farlo vedere che era stato lui. Questa è l'accusa di Maccarone. Fan denuncia, aggressione, denuncia penale, qual è il problema? Cioè non vedo quale sia il nesso. Facciamo sentire anche la versione invece di parte atalantina, direttore generale Pasquale Marino. Dennis è un giocatore che ha giocato 225 partite in Serie A e si è reso sempre protagonista di comportamenti esemplari in campo e fuori. Porta fasce di beneficenza e fa beneficenza nella sua vita. È accaduto, per quello che mi è stato riferito, che Tonelli si è attardato a minacciare Dennis nel sottopassaggio ed erano già cominciate in campo le minacce di morte a Dennis e alla famiglia di Dennis. E questa è la versione di Pierpaolo Marino. Intanto vi faccio sentire Ventura, che ha il volto soddisfatto di chi dopo 20 anni ha riportato il Toro a vincere il derby. Aveva fatto una gran partita il Toro anche all'andata, era stato beffato al 93esimo dal gol di Pirlo. Eccolo qui Ventura ai microfoni di Sky. Mancava il derby, che mancava dalla notte dei tempi. Direi che, come avevo detto la settimana scorsa, era la in questi 4 anni credo che abbiamo costruito dal nulla una torta importante per il futuro di questa società. Mancava la ciliegina per concludere questo quadriennio. Ora vediamo, ci mancano ancora 7 partite che ci danno anche la possibilità di, magari in base ai risultati, poterci giocare qualche cosa, vediamo. Ventura, glielo dico, quando la sentiamo parlare così, sì, a noi ci sembra sempre che si stia parlando di una fine di un ciclo, eh? Cioè di un saluto, di una commozione, invece sappiamo che settimana avete programmato. È un messaggio forte e chiaro, la fine di un ciclo di 4 anni, perché spero sempre che poi se ne inizi un altro di altri 4 anni. Sto iniziando adesso ad allenare, quindi la mia voglia è enorme, quindi... La voglia è enorme, e si vede anche da come gioca il Toro, questo è quello dell'anno scorso. Intanto saluto Xavier Iacobelli, ciao Xavier. Ciao direttore. Buonasera a voi. Questo era quello stesso che un giro di lancette fa, cioè alla fine del derby d'andata faceva un gestaccio ai tifosi della tribuna, che era contestato da tutti quanti, e che invece ha fatto un'altra stagione meravigliosa, sì, alla faccia di tutti. Perché l'adrenalina da campo ci sta, poi ma quello che sta, è successo a Bergamo, ma che ripeto a Bergamo, andrà cosa approfondito c'entra? Ma si andrà approfondito, uno scazzo tra due giocatori, non facciamola troppo grossa, se vogliono fare una denuncia la fanno, è morta lì, ci sono da una parte uno che le ha date, dall'altra uno che le ha prese, inutile stare a fare tanta storia, tanta demagogia, sono cose che in campo succedono, fanno denuncia e la risolvono in altra sede, finita, basta. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, anche perché io credo che ciò che debba essere sottolineato oggi è stata una giornata bellissima di campionato, adesso poi mancano altri 2 atti, ma è la conferma che il nostro calcio, ad onta di chi si esercita spesso ad essere detrattore, possiede un livello tecnico e qualitativo e di interesse superiore ad un'immagine che è stata avvalorata all'inizio di questa stagione, perché 3 squadre su 8 semifinaliste nelle coppe europee e un derby come quello di Torino bellissimo, proprio un confronto strepitoso che il Toro ha meritato di vincere e che la Juventus ha cercato di non perdere, ha colpito anche 3 pali, dando un'altra dimostrazione di orgoglio, perché non è facile lasciarsi alle spalle un'impresa come quella di Monaco, che ha consentito alla formazione bianconera di rientrare fra le prime 4 migliori squadre europee dopo 12 anni e affrontare una partita ad altissimo livello qual è la stracittadina con il Toro, che il Toro non vinceva da 20 anni. Quindi io credo che gli aspetti positivi prevalgano nettamente su quelli negativi, che sì, però non sono dentro il campo. Oggi ci siamo divertiti arriva dopo una settimana poi, meravigliosa per il calcio italiano. Fuori Xavier, noi ci abbiamo aperto, perché quello che è successo a Torino è inaccettabile, tutto dall'inizio alla fine. Sì, ma fuori dal campo però è come sempre un discorso che riguarda questo stato debole, perché io vorrei sapere dal ministro dell'interno, da chi per esso, com'è possibile che le bombe carta continuino ad entrare negli stati. Tanto mi risulta che oggi non siano scoppiate solo a Torino, risulta, c'erano ieri sera a San Siro, credo anche a Bergamo. Anche questo dato di fatto, ma com'è possibile? Continuano a riempirci di parole. Noi siamo andati a rivedere in redazione quello che venne detto dopo il 3 maggio, perché purtroppo dietro l'angolo c'è anche il primo anniversario di quanto accadde di drammatico, poi sfociato nella tragedia di Ciro Esposito dopo 53 giorni di straziante agonia in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Ma risulta che qualcuno abbia pagato a livello di responsabile di gestione dell'ordine pubblico. Quante parole abbiamo ascoltato? Ma chi l'ha detto che restituiremo gli stadi alle famiglie e tratteremo i violenti come mafiosi? Non l'ho detto io, non l'ha detto un pinco palla qualunque, l'ha detto il ministro degli interni l'8 agosto dell'anno scorso. Poi sono venuti gli incidenti di Roma CSKA in settembre, poi è venuta Italia-Croazia sospesa per 10 minuti a San Siro in novembre, poi è venuta la barcaccia distrutta dai barbari olandesi e poi sono arrivati i fatti di oggi a Torino. Quindi questa è una questione che investe più che mai questo stato debole, è una questione di ordine pubblico, è una questione di prevenzione. Sì, noi quello che chiediamo alle società, quello che chiediamo al mondo del calcio è di fare quel poco della sua parte che può fare. Ad esempio, io lo ripeto, Juventus e Toro diano un segnale, qualunque sia il verdetto della giustizia sportiva domani, non facciano ricorso, si dissocino, aiutino a individuare i responsabili, li buttino fuori dai propri stadi, li citino per danni senza poi magari tornare indietro. Però so che su questo ad esempio tu hai una posizione diversa, direttore, però c'è il traffico, se hai un minuto di pazienza poi riagganciamo, traffico. Tutti convocati. Convocati. 800 24 00 24. Poi mi piace anche sapere cosa ne pensate del passo falso della Lazio, perché questo è un passo falso. Aveva l'occasione di staccare la Roma al secondo posto in classifica e invece si è fatta fermare 1-1 dal Chievo. Xavier Iacobelli, per chiudere il discorso che stavamo facendo su ciò che è accaduto al di fuori del campo. No, io dicevo che Juventus e Torino hanno già dato un segnale preciso al termine della partita. Ho visto quegli abbracci, quelle strette di mano fra i giocatori bianconeri e quelli granata che valgono più di 100 discorsi. Però ripeto, noi abbiamo registrato oggi, da stamane, prima ancora che il derby si iniziasse, purtroppo oggi pomeriggio, degli episodi di cronaca nera che chiamano in causa la responsabilità di chi deve gestire l'ordine pubblico, perché le bombe carta come entrano dentro gli stadi? Sì, però anche delle società, direttore, anche delle società, perché cioè a me viene molto, cioè mi viene un parallelo che è forzato, però come quello delle vicende doping dei ciclisti, ti beccano e tu dichiari la tua innocenza e dici come oggi Marotta, ma colpa dei giornalisti di questo e di quello, di quello che no, hanno scritto, che siamo perfettamente non è colpa, allora chiariamoci, non è colpa nostra se uno dà un ceffone ad un altro, perché non è colpa nostra? Ok, certo, io credo che questa sia una posizione forzata. Allora, che vengano fuori le società ad allinearsi tutte compatte, magari dietro Lotito, magari dietro a Pallotta, magari dietro la Juventus che ha sempre agito, e ricordiamo le dichiarazioni di Agnelli dopo gli striscioni del derby contro Superga, eccetera eccetera, e ricordiamo anche quello che ha fatto la Juventus. Altre voci io non ne registro, posso dire? Sono perfettamente d'accordo, anche perché dopo la sortita di Pallotta c'è stato un silenzio assordante. Bravo, ma vedi, bravo. Quando questi signori si ritrovano in Lega, quando io devo ascoltare il presidente della Lega di Serie A, che secondo uno dei suoi grandi elettori nella telefonata a Iodice conta zero, cito testualmente, affermare dopo le tre semifinaliste italiane che il calcio italiano è tornato ai massimi livelli come se il merito fosse suo, ma perché anziché parlare solo e soltanto dei diritti televisivi di Rosellini non ci spiegano come intendano supportare l'azione di prevenzione e di repressione della violenza dentro gli stati? Questo accade, oppure sostenere Pallotta in maniera molto più vigorosa di quanto non sia stato fatto. Esatto, questo è. Esatto. Invece tu li chiami e ti dicono: no, ma perché chiami me? Ma perché, perché ti devo dire qualcosa io? No, ma io interrogo? No, io non ne voglio parlare. Hai sentito qualche voce? No, io no. Abbiamo sentito cose contrarie, tipo Giulini che ha detto: bah, normale, era una ventina. In altre piazze, per una retrocessione, una si sarebbero mossi molti di più. Sì, no, però mi fate fare una considerazione invece sul campionato, sul calcio giocato. E ad esempio, partendo da questa Lazio che sta tenendo in gioco la Roma, una Roma che va al minimo e che pure resta lì, attaccata a un punto. Ma sai, per quanto riguarda la Lazio, io penso che la formazione di Pioli stia disputando un campionato strepitoso, perché è seconda in classifica a 6 giornate dalla fine. Credo che nemmeno il più ottimista fra i tifosi biancocelesti in estate avesse mai osato pronosticare o preconizzare uno scenario del genere. È evidente che oggi abbia perso una grande occasione, ma dall'altra parte c'era un signor Chievo. Non bisogna nemmeno sottacere, a mio avviso, i meriti della squadra di Marandi, un Palofi che ha segnato un gol bellissimo e che si conferma come uno degli attaccanti più in forma del campionato. Io, se fossi la Lazio e la Roma, sarei molto attento al Napoli, perché il Napoli adesso ha l'occasione di accorciare ulteriormente il divario. La verità, secondo me, è che si deciderà tutto il 31 maggio, perché c'è un tale equilibrio nella corsa al secondo e al terzo posto e ai posti dell'Europa League, fermo restando la possibilità che se Napoli o Fiorentina vincessero l'Europa League ma arrivassero settimi, ci sarebbe addirittura una quarta squadra in Champions League. Sul Napoli direi che possiamo anche escluderla, Fiorentina però al limite la Fiorentina può capitare, Napoli insomma mi sembra proiettato addirittura più in alto. Perché il Napoli secondo me è un giocatore che può decidere, può imprimere il proprio marchio in questo finale di stagione. Questo giocatore si chiama Gabbiadini, che difatti è stato uno di quelli che ha spostato gli equilibri dopo il mercato di gennaio e quindi fa più o meno la riserva, però. Sì, fa più o meno la riserva, ma fa la riserva di lusso, nel senso che poi entra e decide. Gol di cui sette con la Sampdoria, fa inspiegabilmente la riserva. Volevo sapere se ritieni rientrata anche l'Inter nella corsa all'Europa League. E poi oggi comunicato del Milan che dice: il ritiro non è detto che finisca mercoledì dopo la partita con il Genoa, anzi potrà finire magari anche il 31 maggio, decide Pippo Inzaghi. Vanno in ritiro anche Berlusconi e Galliani oppure no? No, al momento non risulta. Bravo, perché? Bravo direttore, ma perché? Allora, questa storia del ritiro, ma allora secondo te Per quanto riguarda la vicenda del Napoli, poté più il ritiro in se stesso o poterono più finalmente le parole di De Laurentiis, che è stato zitto tutta la stagione? Ma certamente sì, poterono le parole di De Laurentiis, perché c'è bisogno di una stazione. Ma il caso del Napoli è totalmente diverso rispetto a quello del Milan. Certo. Forse qualcuno fa finta di dimenticarlo, soprattutto nel Palazzo Rossonero, visto che Inzaghi è più comodo dei parafulmini. E ovviamente poi i giocatori hanno, ci hanno messo del loro, perché la partita di ieri sera è stata veramente vergognosa. Ecco, io lì però credo che Berlusconi e Gagliani non c'entrino, cioè quando per giocare così a Udine non gioca nemmeno una squadra che ha un budget che è meno della metà del Milan. No, ma io non mi riferisco alla partita di semplicemente avere di ieri sera. È chiaro che né Berlusconi né Gagliani siano usciti in campo. Il problema è che da 4 anni il Milan sbaglia mercato. Il problema è che, e lo dimostra Allegri, che è stato cacciato con ignominia dal Milan nel gennaio del 2014, non nel gennaio del 2002, quindi l'anno scorso, e si è visto Allegri che cosa sia capace alla guida della Juventus, peraltro raccogliendo un'eredità pesantissima quale è stata quella di Antonio Conte. Il problema è che se tu radi al suolo un organico, perché ci vieni a dire che ci sono 180 milioni di euro lordi di monte ingaggio annuale, e quindi questo è stato determinante per spazzare via una squadra, perché questo è successo, e dopodiché scarichi Pirlo perché pensi che sia finito o vuoi cambiargli ruolo, poi si vede Pirlo di che pasta sia fatto. Tutti poi ti inerpichi lungo la montagna, scalando la montagna, dei parametri zero, strapagati, supervalutati, e che si sono rivelati delle autentiche delusioni. Qualcuno deve rispondere di questi errori, al di là dei giocatori, al di là del fatto che tu cambi 3 allenatori nell'arco di 6 mesi, come è accaduto nel 2014, uno dei quali, Seedorf, è tuttora a libro paga fino al 30 giugno 2016, nonostante è anche con questo stipendio che risulta pesante, €206.000 netti al mese. Tra l'altro risulta sbarcato Mr. B, quindi nelle prossime ore magari ci spiegherà lui che cosa fa del contratto di Seedorf e di tutto il resto dei conti che abbiamo letto oggi, essere disastrosi i conti, intendo economici, i conti del Milan con questo passivo mostruoso, il passivo più pesante della storia del Milan. Xavier, ti ringrazio, grazie. Ciao direttore, grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie a Xavier Iacobelli. 800 24 00 24, Massimo da Roma. Massimo. Sì, buonasera. Eccoci. Sì, io volevo dire questo. Sono pienamente d'accordo con voi sulla linea dura per quanto riguarda atteggiamenti come quelli avvenuti oggi a Torino, e anzi, a mio modo di vedere, fatti del genere devono comportare eventualmente anche una sospensione della partita, perché qual è la soglia di differenza se c'è il morto o non c'è il morto, o se dobbiamo ricordarci i fatti delle Iselle che dopo a posteriori qualcuno ha detto perché non era stata sospesa. E poi vi lascio la parola. Su un altro aspetto sono meno d'accordo, Cigarini e Denis. Non la metterei sul piano della scazzottata, del campetto di provincia, di quelli che se la mandano a dire ai spogliatoi e ti do il cazzotto. A quei livelli di professionismo strapagati, anche questo contribuisce a esasperare purtroppo questo mondo che è così violento. Giustamente avete criticato un minimo anche Orvietano, e vi fa onore questo, ma ogni componente in questo mondo sta portando questi aspetti di violenza. Sì, dobbiamo darci una regolata. Se i fatti di Bergamo sono andati come sono stati raccontati, perché il campo è il campo, diranno, cioè il campo è il campo, sono d'accordo. Ci vuole però una stangata, ma interverrà il giudice sportivo e interverrà il magistrato, eventualmente se c'è una denuncia, punto e basta. Cioè non mi sembra il caso di farla troppo lunga su questa storia. Sono due che si sono presi a cazzotti, non deve succedere né al campetto di provincia né tra professionisti. Può succedere perché si gioca a pallone, c'è l'adrenalina, ci sono nervi scoperti, e non sono dei ragionieri che vanno allo sportello della banca, quindi sono cose che possono succedere, però non voglio che questo sia indicato come causa di altro che non c'entra niente. Grazie Massimo. 800 24 00 24, sta per cominciare Fiorentina-Cagliari, c'è il tridente Diamante Gilardino Salà nella Fiorentina, un poco e chop per il Cagliari, ve la raccontiamo dopo il GR delle 18 insieme a tutto il resto, partendo dalla crisi del Milan e B Touchable che è sbarcato a Milano. Ragazzi, ci sono tra poco, tutti convocati weekend. 800 24 00 24, se becchiamo tra poco, tutti convocati. E adesso ridiamo lettura dei risultati della 32esima giornata del campionato del giuoco calcio di Serie A. Genoa Cesena 3-1, Hellas Verona batte Sassuolo 3-2, Lazio Chievo Verona 1-1, Parma batte Palermo 1-0, Torino batte Juventus 2-1. Buon proseguimento di serata sulle frequenze di Radio 24. Come sono andato? Mi è sembrata una lettura professionale, coesa e molto positiva. Chissà, magari mi prendono. Tutti convocati. Oh, questo è Berlusconi che cerca lavoro, perché sai ma che adesso grandissimo, c'è Mr. B grandissimo a Milano. Magari da settimana prossima Berlusconi non è più presidente, non è più, insomma, conta più nulla. E allora guarda qui, hai visto, ci ha telefonato, ha detto posso provare a fare io, c'è quello Pardo? Che annuncia i risultati. No, non c'è ancora Pardo, c'è Roberto, c'è da Torino. Lo prendiamo al posto di Pardo. Pardo, prendiamo Berlusconi al tuo posto. Non c'è Pier. Lo fa niente, lo dichiaro. Prendiamo Berlusconi al tuo posto, Pardo. Ci stai ascoltando? Intanto è in vantaggio il Cagliari a Firenze, gol di Chop al minuto numero 7, un po' distratta la difesa della Fiorentina. Roberto da Torino, Roberto. Sì, buongiorno, eccoci. Buonasera. Anzi, buonasera, eccoci qua. Tra l'altro oggi ho visto Pardo al bar dello Stato. Ecco, allora lanciamo anche noi un appello. Cosa stava mangiando? Chi ha visto stava Pardo, gli dica di chiamarci. Stava bevendo una birra, mangiando niente. No, perché lo teniamo sotto controllo, lo teniamo a stecchetto, è a dieta. Lo stiamo monitorando attentamente. Prego, Roberto. Senta, no, io volevo solo dare la mia testimonianza. Oggi ero allo stadio, sono un tifoso juventino e voi direte sei un folle. Ma non ma pensavo perché, noi siamo ancora di quelli che ritengono che si possa andare serenamente allo stadio, cioè anch'io, tipo quelli del Toro anch'io possono andare allo Juventus Stadium, che viceversa, non è che sia stanno mica andando in io sono per il tifo disorganizzato, sono per lo scioglimento dei gruppi organizzati. Sono estremista da questo punto di vista. Sono esattamente della vostra idea. Purtroppo oggi ho avuto la riconferma che è assolutamente impossibile. Mi reco allo stadio, dovevo andare in tribuna VIP con un invito di un amico, poi abbiamo preso i biglietti e mi sono ritrovato in tribuna Granata. Vabbè. Quelli della tribuna VIP non funzionavano? Non si aprivano i tornelli? Non lo so perché, non lo so, mi sono ritrovato. Evitiamo di indagare perché potrebbe uscire... Non funzionavano? No. Dai, io voglio sapere se quelli della tribuna VIP non andavano i tornelli. Cioè, fateci capire. Intanto è arrivato Pier. Candido Cannavò. Pier, come va? Ciao, no, abbiamo un testimone che sta raccontando minuto per minuto cosa hai fatto al bar dello stadio oggi. Ti ha visto, noi ti teniamo sotto controllo. Stadio non ho fatto niente, hai bevuto una birra. A chi la racconti? Io ho già dichiarato pubblicamente che sei. Ho avuto l'acqua per quella tecnica. Non è vero, non è vero. Come si chiama l'ascoltatore? Roberto? Roberto da Torino. Roberto? Sì, eccomi qua. Cosa faceva Pardo? Stava bevendo una birra. E allora che cazzo racconti, Pardo? Che bevevo? Una birra. Ma che birra? Pierluì. Ma subito mandato ai miei regali, non perché ci sia niente dentro la birra, ne ho bevute miliardi di birre. L'ha detto Roberto, t'ha visto? T'ha visto? Bene, ma non sono io, non sono io. Era Ricucci. Ok, scoperto l'arcano. Torniamo seri però, perché Roberto ci stava raccontando il suo pomeriggio di tifoso juventino nella Fossa dei Leoni. È stato veramente fantastico. Sono arrivato e ho assistito in diretta, a parte come eravamo forse gli unici tre senza sciarpe o qualcosa del Torino, e quindi ho cominciato a sentire un po' di commenti. Eccoli qua, i pezzi di merda qua. Uno fa finta di niente, in effetti non ho paura, sono tranquillo. A un certo punto tafferugli, casino, arriva il pullman, una cosa allucinante, bastardi, babbo, pietre, uova, di tutto di più. Oggi andiamo alla grande, perfetto. Entriamo dentro lo stadio, mi ritrovo in mezzo a tutti i tifosi Granata, ma non è un problema. come ci sediamo si vede che non avevamo queste sciarpe subito. E eccoli qua i topi, i bastardi sono qua con noi, perché non saltate? Cioè, a quel punto io ho detto, guarda ragazzi, ma io ti conosco. Sì. Cioè, io non so chi sei. Sì, è stato un pomeriggio piacevole. Un pomeriggio di un giorno da cani. Poi ho assistito a questo veramente ignobile spettacolo delle bombe carta, dei lacrimogeni che saltavano da una parte e dall'altra, di gente arrestata, immanettata. Cioè, veramente. Mi sembrava di essere in un film. Sì, l'ultima parte che hai raccontato è la migliore, cioè la gente arrestata e ammanettata. Di tutto questo quadretto, vediamo, è la parte che ci dà qualche speranza. Negli anni 90, negli anni 80 e 90, dove Roberto. Queste scene succedevano tutte le domeniche. Cioè, non è che ci racconta qualcosa di nuovo. Pier, noi purtroppo a fatica oggi stiamo raccontando questo derby meraviglioso sul campo, bellissimo, e poi tutto il resto che ci fa arrossire di vergogna. Sì, ci fa arrossire, ci fa incazzare, perché poi è la stessa cosa. E qui però io ribadisco quello che dico tutte le volte: non è con la squalifica del campo, non è con dei provvedimenti così diciamo di facciata che si risolve il problema. Il problema si risolve andando a colpire i responsabili, e quindi con provvedimenti duri, decisi, che siano in versione di tendenza, perché purtroppo è l'unica strada. Quindi Pier, a stare a sentire Marotta, arrestiamo Ormezzano, è così? No, però Marotta parlava prima dell'episodio più grave. No, ok, ho capito. Diamo allora, un ordine temporale alle cose, sennò... Però Marotta ha detto quelle cose, allora arrestiamo Ormezzano, giusto? No, Marotta ha detto quelle cose. Io tra l'altro ha più di 72 anni, dico, quindi non va neanche in galera. Arrestiamo chi va allo stadio con le bombe carta. Poi adesso Ormezzano, magari me lo leggo. Chiedo scusa per la mia impreparazione, me lo leggo dalla prima fascia pubblicitaria e ne parliamo di Ormezzano. Sinceramente, però detto questo, per me la responsabilità penale è personale, chi sbaglia dovrebbe pagare e in Italia non paga nessuno, punto. E poi il concetto è molto semplice, le immagini ci saranno. Tra l'altro ho saputo qualche minuto fa che il pullman della Juve è dotato di, ma non perché l'abbiano messo apposta, è proprio perché è dotato, cioè come sai, tipo gli optional. Sì. Ha praticamente 3 telecamere, e quindi probabilmente queste telecamere potrebbero anche, mi dicono che sono già state acquisite dalla polizia. Noi siamo qui che aspettiamo. Io lo ripeto, la ricetta in 4 punti: Juventus e Torino accettino domani la sentenza della giustizia sportiva, qualunque sia, aiutino la polizia ad identificare i responsabili, li bandiscano a vita dai propri stadi, per cortesia. E poi chiedono i danni materiali, perché ci sono, e soprattutto d'immagine. Questo è il modo con cui, secondo me, si riscatta questo pomeriggio di vergogna fuori dal campo. Questo è vero, ed è veramente, guarda, ti dico, stridente con lo spettacolo del campo. Perché certo. A parte una bellissima partita, ma l'atmosfera da un punto di vista proprio di stadio era bellissima. C'era coreografia ovunque, meraviglioso, tutto meraviglioso, il derby meraviglioso, derby, però la giustizia sportiva già che c'è conceda a tutti noi il passaporto per il paese delle meraviglie insieme ad Alice. Noi aspettiamo con fiducia. Intanto facciamo il traffico. Sì, dai, facciamo il traffico. Certo, amici di Radio 24, ho come la sensazione che l'invidia più torbida stia grondando nel paese della suburra anti-juventina. Io trovo tutto ciò grottesco. Dai! Tutti convocati. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... convocati. Questo è l'audio purtroppo di come è stato accolto il pullman della Juventus allo Stadio Olimpico oggi. Sentiamo ancora un passaggio. Viva il calcio. chiamarci in Italia 800 24 00 24. Chiedo un istante di pazienza ad Andrea dalla provincia di Torino. Voglio salutare Gino Pozzo, che invece fortunatamente ieri ha sentito un altro tipo di sottofondo sonoro alla fine di una partita. Questo questa è la festa dei giocatori del Watford sul pullman, un altro pullman, però insomma circostanze diverse. Saluto Gino Pozzo, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Festa quando è arrivata la notizia che l'altra partita era finita 4-3, quindi c'era la promozione in Premier League, giusto? Esatto, adesso siamo riusciti a cogliere la promozione in Premier League con un giorno, con una giornata di anticipo. Grande soddisfazione, immagino. Assolutamente sì, anche perché è la realizzazione di un progetto che viene portato avanti poco sulla base di quello che poi si è fatto a Udine durante molti anni. La famiglia Pozzo ha un network di squadre, c'è l'Udinese che conosciamo bene, c'è il Watford, c'è il Granada. Da un certo punto di vista si comporta come altre big del calcio mondiale fanno, pur avendo dimensioni diverse. Perché vale la pena fare un progetto di questo genere? Ma da noi nasceva dall'esigenza di poter lavorare su tutti questi giovani che andiamo a pescare in giro per il mondo, e c'era il bisogno di controllarli direttamente e di averli in un ambiente che permettesse la loro crescita. Fondamentalmente da questo da cui nasce, da esigenze diverse magari da ecco allora perché io le chiedo questo: perché non è possibile farlo in Italia? Perché in Italia, a differenza della Spagna, a differenza di altri campionati, non è possibile avere una squadra B che magari gioca nella seconda divisione, cioè nel campionato di Serie B, con una stretta sinergia, con la possibilità di far giocare i giocatori ed eventualmente di ritesserarli nel club d'origine, insomma tutte problematiche normative che lei conosce benissimo. Perché in Italia non si fa questo? E state facendo qualcosa per poter realizzare questo? Beh, da questo punto di vista qualcosa è già stato fatto, non sono le squadre B che da un punto di vista tecnico sicuramente darebbero un vantaggio, ma c'è la possibilità delle doppie proprietà. Mi pare che poi all'origine di questo ci fosse una problematica legata all'integrità delle competizioni. Da questo punto di vista non sono molto d'accordo, ma mi pare di capire che fosse questo il problema per il quale non fossero ritenute applicabili in Italia le doppie squadre o la squadra B. Quindi noi siamo furfanti, quindi non possiamo farlo. In Spagna possono farlo serenamente perché non hanno problemi. Sono meno furfanti di noi, non hanno problemi di integrità. È così. Ma non so, io per dire, per l'esperienza che abbiamo noi direttamente in Spagna, dove c'è la squadra B che partecipa al campionato di Serie C, devo dire che forse quelle squadre sono quelle squadre che aggiungono un po' di pepe al campionato, perché sono proprio imprevedibili, sono giovani che vanno a giocarsi ogni partita un poco poi come viene fatto in Inghilterra. Non abbiamo problemi di integrità lì. Assolutamente. C'è Gino Pozzo se hai qualche curiosità. No, meraviglioso. Complimenti per il lavoro eccezionale. Volevo capire che livello di soddisfazione c'è invece sulla stagione dell'Udinese, sul lavoro di Stramaccioni e ovviamente anche sulla partita di ieri, e insomma che effetto fa vedere il Milan umiliato, lo possiamo dire, umiliato veramente? Sì, possiamo dirlo, Pier. Vabbè, ieri è stata una partita dove si sono viste delle cose estremamente interessanti. Questo è un anno di un po' di transizione, diciamo, di rifondazione, perché è un gruppo nuovo, e dal punto di vista dei risultati siamo molto contenti. Dal punto di vista a volte delle prestazioni non sono state sempre lineari, siamo ancora alla ricerca poco di un po' più di continuità nelle prestazioni. Questo sì. Ma la partita di ieri è stata veramente molto molto buona. Glielo chiedo brutalmente, siete soddisfatti di Stramaccioni? Perché non mi sembra tanto. Stramaccioni ha fatto un ottimo lavoro. Quindi resterà. È una valutazione che dobbiamo fare da qua alla fine, però è sulla buona strada. Senta, ho letto che da qualche parte che la seconda telefonata che ha ricevuto è stata quella di Elton John ieri. Non le chiedo di chi è stata la prima, però insomma la Premier vuol dire anche questo, è un mondo particolare quello inglese. Sì, poi dopo noi da buoni italiani la prima telefonata è quella della mamma. Ah, ecco. è la seconda, la, la, la, la, la seconda di Elton John. È così. Ma la seconda è quella di Elton John. Adesso poi non, diciamo così, il fatto che Elton John sia così legato a questo club fa parte anche dello spirito inglese. Si vede anche la cosa che mi ha colpito di più della partita che abbiamo giocato ieri, oltre evidentemente ai festeggiamenti dei nostri giocatori, dei nostri tifosi, è stato vedere la squadra avversaria, che invece si è salvata l'ultima giornata e che nei due campionati precedenti aveva lottato per la promozione, e c'erano 29.000 persone al campo, la partita di Serie B, sono usciti sconfitti per 2-0 con tutto il pubblico in piedi ad applaudirlo. Sì, un po' quello che accade da noi. Assolutamente. Cosa vuoi chiedere, Pier? No, volevo capire se innanzitutto se la mamma del Tom John si conoscono, se li ha fatti incontrare. No, è la prima cosa che farei io, insomma, se fossi presidente. No, ma l'Udinese, dai, è un esempio da tanti anni, è un esempio di programmazione. No, la domanda è se si sente, diciamo, favorito da questa situazione di relativa pressione che c'è a Udine, o se qualche volta invidia ovviamente le grandi platee, le grandi piazze, perché chiaramente non c'è il mercato dei presidenti, no? C'è soltanto il mercato dei calciatori. Però per la qualità del lavoro che avete fatto in questi anni vi meritereste di vincere Coppa dei Campioni o di avere uno stadio di 80.000 persone? Ma io credo che la realtà di Udine è proprio quella che ha permesso poi di sviluppare questo tipo di progetto. Non so se questo progetto, non credo che sia esportabile in piazze più importanti, perché le pressioni sono diverse. Far crescere i giovani richiede un ambiente come quello di Udine. A Udine ha funzionato veramente bene e forse perdiamo di vista l'eccezionalità di quello che si è fatto a Udine. Poi magari quando lo stesso modello viene riproposto in un contesto diverso, altamente competitivo come quello inglese, ci rendiamo conto della bontà del lavoro svolto. No, ma sai cosa io voglio chiedere? Perché non perché è in linea lei, ma io l'ho dichiarato più volte e più volte ho litigato con gli ascoltatori. Cioè, io continuo a pensare che l'Udinese sia il modo in cui va gestito il calcio italiano ad un certo livello. A me interessa davvero pochissimo se un giocatore è italiano o filippino, mi interessa se è bravo o non è bravo. Quindi questo discorso del bisogna far giocare i giovani giocatori italiani, e io aggiungo bisogna farli giocare se sono bravi, in una logica di mercato. Secondo me all'Udinese avete lavorato non in maniera da favorire il calcio italiano, perché giustamente fate una logica imprenditoriale, però in maniera da favorire le logiche del club, che sono quelle che contano. Ma guardi, sarebbe più semplice andare a prendere i giocatori in Italia, sì, che evidentemente sono già adattati e hanno una cultura che ci rappresenta e non hanno problemi a calarsi in quella che è la nostra realtà. Evidentemente, torniamo al discorso poi sulle seconde squadre, che credo sia un discorso fondamentale nella crescita dei giovani giocatori di grande talento, perché credo che manchi proprio quell'anello di congiunzione tra il calcio giovanile e il calcio di alto livello, perché a livello di giovani abbiamo degli ottimi talenti che però poi non arrivano completamente a maturare, e da lì penso si debba partire. Poi dopo, ripeto, ci farebbe anche a noi piacere lavorare di più sui giocatori italiani, però mancando gli strumenti diventa un po' difficile. All'estero vai a prendere dei prodotti che sono maggiormente formati, e per cui poi dopo hai un qualche cosa che ti permette di esprimere dei valori maggiori. No, io condivido. Prima di condivido, salutare, condivido. Risponde alla domanda di un amico, Sebastiano da Bassano, che evidentemente è un appassionato di economia, non è Barisoni, e chiede se è riuscito ad avere un conto economico inutile anche in Spagna e in Inghilterra, oltre che all'Udinese. Beh, in Spagna sì, siamo riusciti a tenere i conti a posto. In Inghilterra, sì, evidentemente nelle categorie inferiori questo è abbastanza difficile. Però anche l'anno prossimo. Poi ma adesso arriva un sacco di soldi. Prossimo, adesso arriva un sacco di soldi. L'anno prossimo penso che ce la facciamo. Sarà come aver fatto bingo. Arrivano un sacco di soldi dalla vendita dei diritti televisivi all'estero. Saluto già Gino. È vero anche che la competizione è di alto livello e richiede anche investimenti. Sì. Non c'è alcun dubbio su questo. Sì, sì, assolutamente. Grazie a Gino Pozzo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. A Gino Pozzo, che ha festeggiato ieri la vittoria dell'Udinese e la promozione del Watford. Facciamo Andrea dalla provincia di Torino, che ci aspetta da un secolo. Andrea. Sì, buonasera. Eccoci. Grazie. Allora, io non essendo tifoso, pur abitando in zona, non essendo tifoso né granata né bianconero, spero di non essere tacciato di partigianeria, però veramente ho ritenuto inaccettabili le dichiarazioni di Marotta, di cui forse avete già parlato, sì. Perché io tra l'altro sono anche presidente di una società dilettantistica di calcio, e penso che se è vero come è vero che molte volte i tifosi esagerano sia con le parole che purtroppo anche con i fatti, sia un dovere preciso di un responsabile di quel livello, di una società di quel livello, di prenderne le distanze, di scusarsi con i feriti e di portare una parola di sdegno verso quello che succede, e non scaricare la colpa sui giornalisti, che è una cosa veramente, con il supposto stile Juve, mi sembra che non ha, sì, proprio niente. Però attenzione, Marotta ha parlato prima della partita, prima dei fatti della bomba carta. No, questo perché bisogna essere corretti nell'informazione, poi discutiamo sulle sue dichiarazioni, ma non hanno nulla a che vedere con quello che è avvenuto dentro lo stadio. Prego, no, era solo per precisare, Andrea. Allora può darsi che, perché io appunto non essendo tifoso non ho seguito la partita, mi ha colpito un lancio sul sito, e cito la fonte, sul sito della Gazzetta dello Sport, dove si riportavano le parole di Marotta, sì, sì, ma sì, riferite alla bomba carta. No, sono riferite all'assalto al pullman della Juventus, okay. E comunque c'era stato un pre-partita abbastanza movimentato. Il che non cambia niente. Non cambia niente. Era solo per evitare fraintendimenti. Era solo per evitare fraintendimenti. Insomma, è giusto precisare dal punto di vista cronologico come sono avvenute le cose. Grazie Andrea. Pier, resta lì. Ci fermiamo proprio un attimo. Torniamo subito. Io credo che oggi l'Udinese abbia dimostrato quello che può fare, facendo secondo me forse la miglior partita davanti ai nostri tifosi e meritando la vittoria. Oggi abbiamo 38 punti a 6 partite dalla fine, quindi secondo me è un passo avanti enorme per il nostro obiettivo, che è quello della salvezza, e faccio i complimenti ai miei calciatori. Tutti convocati. Tutti convocati. Di Natale la mette dentro, attenzione, l'aggancio e Pizzi porta avanti l'Udinese, terzo gol in carriera al Milan. Di Natale, Diego Lopez, non è finita, la rimettono dentro e Badu fa 2-0. Parte il cross di Cerci Pazzini, 2-1, il Milan è ancora vivo al 43esimo. I went into the city, went into the town, went into the land of the midnight sun. Abbiamo fatto una brutta partita, ci sono poche scuse, sono molto molto arrabbiato per l'atteggiamento che c'è stato, perché noi ci giocavamo ancora l'Europa e ci giochiamo sempre la dignità indossando la maglia del Milan. Oggi non mi è piaciuto l'atteggiamento, l'Udinese sembrava si giocasse la finale di Champions e noi no, no, cioè noi no. Stasera andremo a Milanello, penseremo bene a quello che dobbiamo fare in più, e poi da mercoledì andrà in campo chi tiene tantissimo questa maglia, perché noi siamo il Milan e non possiamo fare queste figure. Siamo il Milan e non possiamo fare queste figure. Questo è il riassunto del Milan di ieri, un pianto greco. Stefano Ragno, ciao Stefano. Ciao, buona giornata a tutti. Oh, intanto vi do le ultime da Milanello, squadra in ritiro, l'avete sentito, l'aveva annunciato ieri Inzaghi. La novità è che il Milan ha fatto un comunicato per spiegare che il ritiro può finire dopo la partita con il Genoa, oppure la settimana dopo, o quella dopo ancora, o quella dopo ancora. Insomma, tutto nelle mani di Inzaghi, perché il Milan di ieri sera ha fatto perdere la pazienza a tutti, e non solo a Berlusconi, che voleva esonerare l'allenatore. Però non è andato in ritiro, no? E poi è stato convinto da Gagliani. Non è in ritiro Berlusconi perché è sbarcato a Milano, e questa è l'altra notizia, Mr. B Touchable. E si dice domani dovrebbe esserci questo incontro per il futuro del Milan. Stefano, funziona o no il ritiro in casa Milan? Io non so, tu ne hai mai fatti al Milan di ritiri, ritiri in senso punitivo, eh? No, grazie a Dio era un periodo... c'era poco da punire. Era un periodo che andava tutto bene, sai, purtroppo era un ciclo quello che è di un Milan stellare, perciò era difficile poter portare, anzi, andavamo spesso in ritiro perché giocavamo... tante partite, perché arrivavamo sempre in fondo a tutte, sì, le competizioni, perciò quello era il ritiro nostro, ma certamente erano altri momenti. Poi abbiamo letto della lite sul pullman tra Inzaghi e i giocatori, siete stati indegni, tu non sei adatto, Milan che ha smentito questa seconda parte della ricostruzione. Io credo, dimmi tu che conosci poi come funziona uno spogliatoio, che sia il capolinea a prescindere della storia tra Inzaghi e la squadra quando succede questo tipo di episodio. Ma non so, lo sai, si vociferava già prima, è normale che è stato un esperimento, dispiace per Pippo che comunque è un amico, certamente anche la colpa di una squadra che comunque non ha tantissima qualità, e se sia nel calcio comunque sia, poi alla fin fine sono i giocatori che ti fanno vincere delle partite. È normale che questa squadra in questo momento ha tanto da costruire, e si spera comunque che con l'ingresso di soldi veri, soprattutto perché si parla che appunto c'è questa cordata che dovrebbe prendere il Milan, però si spera anche che rimanga comunque qualche Berlusconi con della percentuale, perché comunque è uomo anche di calcio, e quando c'è stato il portafoglio c'era stato da sicuramente costruito delle corazzate. Quando ha avuto voglia e possibilità di investire, cosa che da qualche anno non fa. Pier, scusami Stefano, Pier, sei ancora lì? Pier, ci sei? No, tutto questo è una storia di una tristezza infinita, posso dire. Beh, una storia, no? Dai, per una società come il Milan. Ma sì, è una stagione da un periodo negativissimo e finisce qui, insomma, cioè, secondo me, insomma, non è che lo dico per... Milan di oggi è appunto umiliato e umiliante, e detto questo ha fatto 30 anni di storia come pochissimi altri club al mondo, certo, dovrebbe certo, fare chiarezza proprio per questo, proprio per questo dovrebbe ti fare dico. Chiarezza, dovrebbe fare chiarezza, dovrebbe prendere un allenatore di qualità, e al momento Zaghi non lo è, lo diventerà probabilmente in futuro, ragazzo intelligente sicuramente, ma oggi in questa stagione certamente ha fallito, dovrebbe smettere di cercare ogni volta il jolly in fase di mercato e fare un discorso di programmazione un po' più oculato, anche più onesto nei confronti dei tifosi, che hanno vinto tanto in questi anni, per cui vi si poteva, l'ho detto mille volte, proporre con serenità un progetto di medio periodo, investendo sui giovani, lavorando per tornare a vincere tra 3 anni, 5 anni. Cioè, questo discorso io non penso che ci siamo stupidi, io penso che anche se sei il Milan, un discorso come questo può trovare a farlo, soprattutto perché hai una forza enorme che ti ha dato la storia, certo, mostrato certo. Di aver vinto tanto, certo. Di avere dei dirigenti molto bravi. E poi Milan è capace di tutto, è capace di colpi di coda, perché chiaramente perché non sia capace di prendere Cannavaro come allenatore, no, come ho letto tutto, Stefano, ma no, ma tutto oggi questo, su qualche giornale per il nuovo è corretto, corso. Però no, non, il Milan non si può permettere un discorso di questo tipo per ragioni di immagine, cioè non Berlusconi non potrà mai permettersi un discorso di questo tipo. Ok, adesso giochiamo con Saponara, con i ragazzini eccetera eccetera, tra 3 anni torneremo competitivi, per una questione di immagine. Secondo me poteva farlo in un certo momento, poteva farlo quando sono stato in cui sono partiti Ibra e Thiago, poteva provare a fare un discorso di questo tipo. Certo, ci voleva un po' di coraggio, si andava sicuramente incontro a un po' di vacche magre, ma cioè non è sinceramente affidandosi al colpo estemporaneo o al campione finito. Certo, con degli ingaggi certo. Pesanti che risolvi la situazione. No, non sono d'accordo, Stefano, si poteva gestire diversamente questo tramonto dell'era Berlusconi? Certamente certi giovani che abbiamo visto andare anche via, che avevano fatto anche bene in campo, certamente sarebbe stato più bello e più dignitoso vedere questi ragazzi, che se non si prova a mettere in campo e dare a loro continuità è difficile anche farli crescere, perciò era forse il momento giusto per dare una svolta, anche perché se gli SN giocatori che comunque andato tanto al calcio, però in questo momento non potevano certo aiutare per la causa del Milan. E poi le pressioni comunque di San Siro sono tante, perciò è stato un rischio. Forse il fatto che di aver messo Inzaghi era proprio perché la società, non potendo investire oppure non volendo investire, forse con un uomo Milan, no, per comunque verso i tifosi avere un pochettino più di tempo, no, anche se le cose fossero andate male, però il Milan non si deve nascondere. Stefano, ma tu sei d'accordo? Io ho avuto l'impressione che ieri Inzaghi pensasse di essere stato un po' tradito, forse lui credeva davvero alla possibilità di giocarsi le chance di restare sulla panchina del Milan in questo finale di stagione. Ha ragione a sentirsi un po' tradito? Ma beh, è normale che lui era giusto. Cioè, ieri non hanno giocato per lui, nemmeno per se stessi. Ma, però, sono curioso, insomma, di vedere la lista degli appurati a questo punto. Ma purtroppo, quando poi vedi le distanze sono tante, gli obiettivi ormai erano sveniti, certi giocatori poi, quelli non professionisti, quelli che comunque hanno mollato già da tempo, non ti possono certo aiutare, forse non volontariamente, però purtroppo. Tante volte quando ti alleni anche durante la settimana male, perché comunque non vedi obiettivi, diventa difficile poi poter accendere la luce quando è solo il tempo della partita. Perciò anche questo diventa anche difficile, perché non vivendo anche la settimana, non vedendo quello che si fa durante la settimana, è difficile parlare da fuori e fare dei commenti. Certamente, quindi il ritiro può servire da questo punto di vista? Certamente, comunque sia, Inzaghi era giusto che credesse in questo, perché magari un posticino UEFA poteva garantire a lui di stare un altro anno al Milan. Anche perché la Fiorentina continua a perdere, finale di primo tempo è sempre sotto 1-0, mancano 4 minuti. Sembra che si giochi a Ciapanò tra quelli che corrono per prendere l'Europa League. Ma se si vede anche la Juventus, che quest'anno ha 76, ha 14 punti di vantaggio, l'anno scorso 102 punti ha fatto la Juventus e 100 la Roma. Questo ti fa capire che comunque il campionato fino alla fine si deve giocare, anche perché nelle ultime gare molte volte abbiamo visto squadre in rincorsa prendere 10-11 punti dalla prima, perciò era giusto anche crederci, però questa squadra purtroppo forse per qualità, per poca qualità o per poca professionalità di certi non ha nulla da dare. Era difficile poter dare. Grazie Stefano. Ciao, figurati, grazie a voi. Grazie a Stefano e Ragno, questo sulla crisi del Milan, poi c'è tutta la parte societaria che ricordiamo dice che Mr. B Touchable è sbarcato a Milano e quindi nelle prossime ore stiamo attenti, perché potrebbe esserci qualche novità. Presidente, torna a trovarci. Desidero ringraziare molto Presidente Mattarella. Il Presidente Quincy per l'ennesimo invito così cortese che mi ha rivolto, concedendomi la possibilità di condividere la mia orgogliosa soddisfazione. A reti unificate soddisfazione su per cosa, Presidente? Intanto buonasera. Presidente, perché è soddisfatto? Da italiano desidero esprimere vivo gradimento per la splendida affermazione internazionale della Juventus, che nel Principato di Monaco ha sollevato la coppa più prestigiosa. Non ha vinto, era quarto di finale, tra l'altro ha anche pareggiato, non è che poi ha proprio benissimo. Desidero allora esprimere a reti unificate su Radio 24 e Radio 24 le felicitazioni più fervide per il 31esimo scudetto della gloriosa società. Presidente, ha perso la Juventus, ha perso. Non ha vinto lo scudetto, lo vince settimana prossima. Desidero allora porre alla vostra cortese attenzione sul fatto che domenica scorsa alle 17:30 ora italiana, meridiano di Greenwich, predissi con assoluta precisione la vittoriosa cavalcata di Valentino Rossi, verificatasi puntualmente ha ragione, ore 22:30, una clamorosa botta di culo. Pertanto questo è un linguaggio che non si confà alla vostra esperienza. Lo sapevi che il presidente settimana scorsa ha azzeccato la vittoria di Valentino Rossi, no? Una clamorosa botta di culo. Pertanto, egregi Capuano, sì, e Genta. Prego. Ritengo c'è doveroso. Anche Pardo, c'è anche Pardo. C'è anche Pardo. E quindi saluto cortesemente anche Pierluigi Pardo. Ritengo doveroso, essendo presidente, far pervenire gli italiani a reti unificate, sì, su Radio 24, Radio 24 e Radio 24, le mie previsioni per la schedina odierna. Questo può essere utile. Può una essere grande utile. Soddisfazione per il popolo poi, italiano. Due soldini, so. Udinese batte, sì, Milan 2, sì, a 1. Hanno giocato ieri. Questa non è che sia una grande previsione. L'Internazionale, sì, batte la Roma 2, sì, no, ma hanno giocato ieri. Ci deve dire il Napoli di stasera, Atalanta, ad esempio. Empoli 2, sì, a 2. Va bene, arrivederci. Traffico, traffico. Tutti convocati. Convocati. Finito il primo tempo a Firenze, Fiorentina 0, Cagliari 1, decide il gol di Chop. Fin qui, minuto numero 7, Fiorentina non bene. Soltanto nel finale ha sferrato in un paio di occasioni la rete del pareggio, l'ultima proprio pochi istanti prima del riposo, con un diagonale di Gilardino che ha sfiorato il palo alla destra del portiere del Cagliari. Riccardo da Firenze, Riccardo. Ciao. Eccoci. Ciao. Saluto Pierre, che lo ritengo, ciao, più grande giornalista, prima c'era Dario del Globo Terracqueo, sono d'accordo. Il mio giocatore preferito, abbonato da molti anni al Milan. No, volevo chiedere a Pierre che, vedendo il Milan quest'anno, e sono una manica di indigni, perché io voglio vedere il Milan dalla finale di Coppa Italia del 77 con l'anno di Marchioro, e poi io, gente indegna in questo modo qui, però è stato fatto un processo l'anno scorso a Fedor, se magari non c'era, però con una squadra molto più scarsa di questa, per me aveva fatto molto meglio. Allora è che o è l'allenatore, non gli ha voluto, non gli ha dato niente, ecco, volevo. A me sì, ragazzi, Inzaghi, ve l'ho detto, non mi sta piacendo, ma non, veramente non è che uno c'ha, sta anche molto simpatico come persona, e mi dispiace nel senso che veramente, vabbè, gli auguro il meglio, certo, bene, no, appunto, però capita, però non mi sembra una guida particolarmente sicura, sinceramente mi sembra che spesso abbia trasferito concetti un po' di paura a questa squadra, questa è la mia sensazione. Non è un giudizio di valore assoluto. No, ma per carità. Ma poi guarda, ti dico una cosa, che magari rischia anche un po' di bruciarsi, no? Nel senso che un allenatore giovane ha tutto il diritto di poter fare chiavetta, facciamo tutti, insomma, non è che io magari faccio male pure adesso, però voglio dire, fatto la prima telecronaca, non è che c'avevo l'esperienza di quando poi ne fai 500. Quindi, ma Conte è stato cacciato via dall'Atalanta. Ma appunto, quindi voglio dire, insomma, io credo che Inzaghi sia una persona molto intelligente, fa un grandissimo giocatore, e questo carisma può essere utile, però in questa squadra quest'anno vedo poco la Samana. Non la vedo, sì, in positivo, mi sembra stata spesso impaurita, ci sono stati dei cambi che mi sono rimasti impressi, uno a Torino, un altro, sì, un altro in cambi poco in linea con lo stile Milan, dal punto di vista degli attaccanti non mi sembra che abbia trovato la quadra, sicuramente deve essere dato atto, l'ha fatto rifiorire, però poi a che prezzo? E allora ogni attaccante che va a giocare lì si perde, anche il povero destro forse penserà, a Roma secondo me pensano che era meglio destro, visto che si giocava poco, però contro le piccole destro giocava, spesso segnava e avrebbe risolto parecchi problemi, e al Milan sta incidendo pochissimo. Cerci è arrivato, cioè secondo me la base di questa squadra non è complicata. No, c'è anche un amico che lo scrive: i giocatori del Milan presi uno per uno non sono male, il manico è scarso, ecco, però secondo me non è nemmeno questa la lettura, per carità, Inzaghi non era un allenatore adatto, questo sta dicendo la storia di questo campionato, Pierre, poi ci sono prestazioni come quelle di ieri che fanno fare mille riflessioni anche sulla tenuta del gruppo, ed è successo già all'inizio di questo 2015. C'è Marco da Siena. Marco, buonasera. Eccoci. Senta, io ho sentito, forse sbagliando, Pardo che parlava di belle coreografie, sì, all'Olimpico di Torino, ma io ho visto la foto sul sito di Repubblica, c'era un teschio della curva Granata. Ora, i ventini hanno altri simboli di morte, non è che vogliamo, voglio entrare in dettaglio, però. Sì, ma non ho detto che era bello il teschio, che fra l'altro non ho neanche visto. C'erano dei bandieroni bellissimi, Granata, con la scritta solo noi, se non sbaglio, e c'era uno striscione con la bandiera bianco-nera della Juve, che diceva Torino è nostra, una cosa del genere. Insomma, erano, secondo me, era un bellissimo impatto visivo. Poi posso... c'era un teschio, ma... Prego, prego Marco. No, volevo dire, io volevo agganciarmi a questo, però per dire che è inutile che poi ci giriamo intorno, i soli noti. Io ho frequentato un po' quegli ambienti. Il problema è tutta la curva, è inutile, perché gli ultras sono quelli che ti fanno le belle fotografie, perché sono loro a farle. Però sono quelli poi che, ecco, ti mettono i teschi, i bandieroni, e poi sono quelli che ti vanno a seguire la squadra all'estero, ma sono anche quelli che poi lanciano le carte, cioè. È tutto lì dentro. Lì dentro c'è il bandierone, la bella fotografia e il male. Ora, io vorrei dire questo. Già l'anno scorso mi avete interrotto quando provavo a dire una cosa. Il mondo delle curve degli ultras, alla fine, purtroppo, in un saldo cinico, ancora conviene al calcio italiano. Sì. Perché quello che, ripeto, fa la famosa bolgia invocata da Conte. Sì, ma un po' per convenienza, Marco, un po' per anche, obbligo anche a questo punto, perché diventa difficile recidere questi legami. Abbiamo visto che è molto complicato per il calcio italiano prendere le distanze dalla parte malata che c'è in quelle curve, e che anche oggi abbiamo però visto. Non sono le società. Ma sono anche le società, Pier. Sì, ma le società. Adesso comunque noi misuriamo da domani Juve e Toro su quale sarà la reazione. E le normative. La verità è che la politica per tanti anni ha avuto nelle curve di destra e di sinistra bacini di utenza straordinari. Diciamoci questa cosa sì, qui. La politica. Quello che dice Pallotta due settimane fa è un distratto messaggio, al di là del mancato ricorso, e sai che io ero contrario. Sì, però Pier Pallotta si può permettere di dirlo perché è coerente con l'atto che ha fatto. Altri, la stragrande maggioranza, questa Pallotta coerenza in questo Pallotta momento non ce l'hanno. Pallotta dice una cosa, dice io non posso far nulla. Io non ci posso far nulla su quello striscione, non ho controllo io. Si dice io do 1 milione di euro a Roma Cares, che è l'associazione no profit, faccio beneficenza, ma lì non ho margini di intervento, lo stadio non è di proprietà, non ho delle forze di polizia, non ci sono i soldati della S Roma in curva o i soldati del Torino o i soldati del Rio. Ci sono gli steward che valgono poco in questo momento nell'ordinamento italiano. Ma che possono fare? Ma cominciamo a metterli lo stesso, facciamo come propone il Viminale di dividere le curve in microsettori con in mezzo un cordone di steward. Dividiamo le curve Facciamolo. In microsettori, ma io sono perfettamente d'accordo con quello che dicevi tu prima. Il punto è, ogni volta che succede questo, se poi le persone che commettono questi atti rimangono impunite, si andrà avanti così. Se invece questo non avviene, e ce ne sono come succede in Inghilterra e in altri paesi, allora le cose cambierebbero radicalmente. Il resto... francamente, sono chiacchiere, secondo me, nel senso che poi ci saranno anche delle paure da parte della società, sicuramente ci sarà dirigente che ha paura di ferire la suscettibilità del traditurno per non avere problemi, lo posso immaginare questo, non lo nego, ma in ogni caso non è il signor Urbano Cairo o il signor Elkan o il signor Agnelli che può andare ad arrestare. No, per carità, questo assolutamente no. Però da domani, Pier, misuriamo la risposta di Juve Toro. La Juve ha dato in passato dei segnali, aspettiamo anche quella del Toro. La risposta è dello Stato. La risposta è anche dei club, secondo me. Domani non ci deve essere nessun tipo di copertura se verranno presi i responsabili. Tu ci hai raccontato delle telecamere del pullman della Juventus e non abbiamo dubbi, perché già in passato è successo qualcosa, no? Stavo ascoltando, perché ho fatto qualche intervista, ma stavo ascoltando quello che si diceva lì in zona mista, in zona flash, e appunto pare che il pullman della Juve abbia queste telecamere installate e che la polizia abbia chiesto alla Juve la chiusura di queste immagini. E noi siamo convinti che la Juve ovviamente darà queste immagini. Sì. Vi posso far sentire Mihajlovic ieri, perché poi questa sera c'è Napoli-Samp. Partita fondamentale per tutti, a questo punto anche per chi ha 45-46 punti spera di rientrare nella lotta per l'Europa League, a maggior ragione fondamentale per il Napoli, che può agganciare il secondo e il terzo posto, avvicinarsi molto alle romane, però è anche la partita di Mihajlovic contro quella che potrebbe essere la sua prossima società, o forse no, sentitelo. Una curiosità, ma lei preferisce le proprietà al pesto o la pizza? Non mi piace né uno né l'altro. Mozzarella di bufala o focaccia? No, mozzarella di bufala, sì. A Napoli quindi, diciamo. Mi piace anche la matriciana. e mi piace anche il coso, come si chiama? Cassuola. Cassuola, mister. Cassola, meglio di Cassuola, Pier? Come la mettiamo? Come la mettiamo? Questa è una violenza, questa la considero una violenza, perché io non ho pranzato. La cosa succede raramente e quindi adesso sto ripartendo verso Milano e rischio di mangiarmi il benzinaio. No. Io mi auguro che il benzinaio... Prenditela con Mihailo, mi smettevo con noi. No, hai ragione. Fatto, mozzarella di bufala, trenette al pesto, pizza alla napoletana. Né la pizza né la pasta al pesto. Nella mia classifica metto la matriciana davanti a tutto, poi metto il pesto e la mozzarella di bufala, anche la mozzarella di la pizza un po' meno, sono meno pizzista. Foroni è un grande pizzista, Marco Foroni. Marco Foroni, che salutiamo. Assolutamente. A Napoli vado più sulla bufala o lo scialatiello o il pacchero. E la cassuela come la metti? La cassuela è un po' più hard. Abbiamo finito, Pier. Ti lasciamo al primo autogrill. Alla cassuela. Ti lasciamo alla cassuela all'autogrill che la tira. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schettone. Ciao, Pier. Ringrazio Claudia Schettone, autrice di questa puntata. E poi Pietro Lacorte e Paolo Corleoni in regia. Grazie anche a te, Carlo. Appuntamento domani dopo il GR delle 14 e domenica prossima dalle 17 alle 19. Ciao.